12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi andremo alla scoperta di una nuova professione nata negli USA che oramai sta prendendo piede anche qui in Italia, guadagnandosi sempre più uno spazio nel mercato del lavoro. Parleremo di wedding planner, ovvero di chi si occupa dell'organizzazione di matrimoni, ma non solo, come ci racconterà la nostra ospite Valentina Malacca, professionista in questo settore. La professione del wedding planner rientra in quella categoria che viene definita professioni del futuro. Infatti, da una recente ricerca a livello nazionale, oggi gli sposi che si affidano ad un esperto sono il 70% e l'Associazione Nazionale Wedding Angels, che raccoglie appunto professionisti wedding planners, conta più di 500 iscritti. Il wedding planner è un vero e proprio organizzatore, una persona che deve saper mediare tra il lato sogno che ogni matrimonio contiene e quello più pragmatico, fatto di organizzazione, di timing precisi, di pratiche burocratiche e regole di bon ton. Le coppie che solitamente si rivolgono a questa figura professionale sono spesso coppie che non hanno tempo a disposizione, ma che vogliono avere comunque la possibilità di scegliere e quindi cercano una figura che conosca bene questo mondo e che possa alleggerire in termini di stress e di tempo i compiti appunto che altrimenti spetterebbero agli sposi o ai genitori. Un wedding planner quindi, oltre ad avere buon gusto, creatività e una buona cultura generale, intesa anche come cultura enogastronomica, floreale, artistica, musicale, deve disporre di un'organizzazione tale che gli consente di essere un vero e proprio problem solver, in grado di operare a 360 gradi, di tenere i contatti con tutti i fornitori e sapersi confrontare con ciascuno di loro, senza però sostituirsi o decidere per gli sposi stessi. Un wedding planner ci pare di capire quindi che non può improvvisarsi tale. Per intraprendere questo mestiere, infatti, è bene seguire un corso, studiare e fare moltissima esperienza nel settore degli eventi. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Per capire meglio cosa vuol dire essere un wedding planner, diamo il benvenuto alla nostra ospite, Valentina Malacarte, wedding planner professionista, alla quale chiederemo di raccontarci questo mondo e anche di darci dei consigli su come poter intraprendere questa carriera. Valentina, benvenuta a 12 minuti. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per la bella opportunità. Valentina, ci racconti chi sei e di che cosa ti occupi esattamente e quindi cosa significa essere un wedding planner? Ok, allora io sono appunto Valentina, come mi avete già presentato, sono una wedding planner di Pordenone e svolgo questa attività da 10 anni, attività che fondamentalmente nasce come organizzazione eventi, perché diciamo la cosa fondamentale per diventare una brava wedding planner è saper organizzare un evento, quindi da lì nasce appunto questa mia attività. Ecco Valentina, che cosa significa essere una wedding planner? È una missione, non ci vogliono dei requisiti particolari, ovvero dei titoli di studio, anche se il mio percorso nel settore della comunicazione sicuramente mi ha tanto agevolato, però è una missione, è una cosa che secondo me nasci. Sì, poi è una cosa che si ha dentro, no? In qualche modo. Poi sì. Nella pratica, voglio dire, cioè, no, nell'immaginario comune la wedding planner appunto è quella che organizza il matrimonio dalla A alla Z, ma ci racconti poi esattamente in cosa consiste? Allora, la missione appunto della wedding planner riguarda tutto quello che è l'organizzazione appunto del giorno più importante degli sposi, che significa proprio dal incontrarli, da capire quali sono le loro esigenze appunto organizzative, i loro gusti, i loro desideri, cosa fare, cosa non fare, per poi cominciare a trovare tutto quello che riguarda l'organizzazione del matrimonio, dalla location agli inviti, al catering, ai fiori, alla musica, la torta, i vestiti, i regali, tutto quello che può servire appunto per il grande giorno. Ecco Valentina, prima parlavi, no, che degli studi, no, riguardo alla comunicazione, il tuo percorso, ma cioè, secondo te c'è un percorso proprio di studi specifico da seguire o comunque dei corsi che possono aiutare appunto per poter intraprendere questa professione in base anche alla tua esperienza? Allora, guarda, attualmente sicuramente l'unica cosa che potrebbe essere un attimino affine, però sono basi solo teoriche e tutto ciò che riguarda la comunicazione, quindi un istituto d'arte, un liceo artistico, per poi parlare appunto di percorsi universitari che riguardano appunto tutta la comunicazione, il marketing e quant'altro. Diciamo che quelle sono delle basi. La cosa migliore è frequentare un corso di organizzazione eventi. Ce ne sono tanti, poi più o meno importanti, bisogna anche saper valutare in base alle proprie esigenze, e poi diciamo che la partenza sarebbe appunto organizzare appunto, cioè partecipare a questi corsi di organizzazione di wedding planner, di organizzazione eventi. La cosa ideale sarebbe aver lavorato nel settore degli eventi, organizzare qualche evento, nonché appunto organizzare anche qualche matrimonio e poi partire. Perché un conto è lavorare in affiancamento e un conto è gestire l'intera giornata, nonché i clienti, da soli. Assolutamente, quindi in prima persona. Valentina, certo. Ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi riprendiamo a parlare della professione del wedding planner. Bursting through a blood red sky, a slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Enough to lose my head, disappear and not be seen again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Underwater. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, oggi stiamo parlando della professione del wedding planner e qui con noi c'è Valentina Malacarte, professionista del settore, con cui stiamo scoprendo cosa vuol dire fare questo lavoro. Valentina, nella prima parte della puntata ci hai raccontato cosa significa lavorare in questo campo e anche quale può essere il percorso migliore di studi appunto per intraprendere questa professione. Valentina, dalla passione appunto allo studio al lavoro, qual è stata la tua esperienza, quindi come hai cominciato a muovere i primi passi e appunto quali consigli poi potresti dare anche a un giovane che volesse insomma intraprendere questa carriera? Beh, appunto, allora ribadisco, io ho avuto la fortuna appunto di aver fatto l'istituto d'arte, quindi è una scuola che comunque stiamo parlando di 20 anni fa, quindi è una scuola che mi ha dato delle buone basi in questo settore, perché dentro c'era della fotografia, della storia dell'arte, della stampa, c'era tutto quello che oggi comunque mi è tornato utile. Poi per coerenza il mio percorso è sempre stato un crescendo, però ho sempre lavorato in aziende inerenti a quello che era in questo settore. E quindi ho potuto conoscere appunto che cosa vuol dire la fotografia, i tempi, i costi, la produzione, ho potuto conoscere la stampa, il settore della stampa, quindi anche qui che cosa vuol dire stampare anche un semplice invito, quindi che tempi ci sono, che tipologie di carte e quant'altro. E poi appunto mi sono approcciata, per tanti anni ho venduto pubblicità su mezzi nazionali, quindi quello mi ha fatto conoscere un po' tutte le realtà, le loro tempistiche, le loro esigenze. E da lì appunto 10 anni fa, perché quest'anno faccio appunto 10 anni, ho deciso di avviare la mia attività partendo da zero, ma mettendo quelle che erano le mie competenze a disposizione dei clienti. È chiaro che all'inizio non è facile, perché ovviamente tu hai un bagaglio di informazioni molto ampio, però devi comunque svilupparle, devi comunque conquistarti la fiducia da parte dei clienti. E devo dire che io sono nata come organizzatrice di eventi, quindi anzi, a dire la verità, quello che mi ha spinto a avviare l'attività era proprio un franchising di un'azienda di wedding planner. Poi ho capito che alla fin fine il franchising mi dava solo diciamo la notorietà di un brand, che però 10 anni fa questo settore era completamente diverso da quello che è oggi. Oggi si conosce, si sa che cos'è un wedding planner, 10 anni fa ancora no. E quindi ho visto che questo franchising non mi dava niente di particolare, ovvero non mi dava la cosa più importante e difficile di questo lavoro, ovvero il procacciamento del cliente. Che e quindi? Certo. Dimmi. No, dico che assolutamente insomma è una delle cose fondamentali, nel senso che poi benissimo i percorsi, benissimo le competenze, però poi la bravura sta appunto anche nel... È quello che infatti vedo tante ragazze appunto influenzate o ragazze influenzate dal fatto di aver organizzato il proprio matrimonio, il matrimonio dell'amico o della sorella, vedono questo mondo molto facile. L'unica cosa che io attualmente dico, sì, è un mondo bellissimo, a me personalmente piace, però appunto perché ci sono di fatto nata, cioè io dico sempre che nel mio sangue nelle mie vene scorre sangue bianco, nel senso che appunto proprio è il mio mondo e tutto quello che è matrimonio mi piace, però spesso mi scontro con le difficoltà, soprattutto per come è concepita questa figura in Italia, che non c'è ancora informazione, non c'è cultura in quello che veramente una wedding planner può fare, in quali sono i suoi vantaggi, e quindi in Italia sta ancora facendo fatica. Assolutamente, assolutamente. Valentina, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, per tutti i consigli che ci hai dato, e ovviamente ti faccio anche l'in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie infinite e ringrazio nuovamente voi per la bella opportunità. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse intraprendere la carriera del wedding planner, vi segnalo la European School of Economics, ESE, con sede in Italia a Milano, Firenze e Roma, che dà la possibilità di conseguire la laurea statale britannica rilasciata dall'Università di Buckingham, valida ai fini del riconoscimento in Italia e in tutti i paesi d'Europa, che attiva proprio corso di wedding planning and design certificati. I corsi di ESE prevedono frequenza obbligatoria, studio intensivo di 2 lingue, periodo di studio all'estero, stage di lavoro nelle più grandi imprese del mondo e specializzazioni nei settori avanzati dell'economia. Per info potete consultare il sito www.uniese.it o scrivere a info@uniese.it. Dal mondo del wedding planner vi segnalo anche i corsi che si terranno a maggio 2020. 2013 organizzati da Alta Formazione TNC Training and Consulting a Treviso e a Padova. I corsi prevedono il rilascio di attestato di frequenza Alta Formazione di Union Concilia, iscritta alla Camera di Commercio nel settore formazione professionale ed accreditata presso Fondo Professioni, l'ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro. Per informazioni potete scrivere a info@altaformazione@gmail.com o consultare il sito www.webformazione.com. E per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata dedicata alla professione del cake designer. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.